24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:25 minuti, ci siamo anche noi, cari ascoltatori, in diretta fino alle 9. Che vi devo dire? Vi devo dire il tema del nostro sondaggio. Ci trovate intanto anche su Facebook, 24 mattino. Il tema del nostro sondaggio, parliamo di Santoro, Travaglio, Barbara Spinelli, che hanno fondato un nuovo movimento, Legittima Difesa. Vi piace l'iniziativa? Di questo parliamo, ne parliamo alle 8:30, di opposizioni un po' così, che si coalizzano in varie manifestazioni. E che dire, sarebbe bello iniziare con la lettura dei giornali, ma sarebbe bello anche iniziare puntuale. Allora devo dare subito la pubblicità. E che vi dico? Ci sentiamo tra 7 minuti. In primo piano. E allora, se coraggiosamente, tenacemente, eroicamente siete ancora con noi, finalmente alle 7:33 minuti prendiamo in mano i giornali. In edicola oggi, lunedì 7 febbraio. Sfida i PM in Parlamento, questa è l'apertura del Corriere, mentre Berlusconi attacca stampa e PM per Repubblica, scontri al corteo anti-premier per La Stampa. Il giornale mette la foto di questi scontri ieri ad Arcore, dopo le ragazze gli idioti, questo è il titolo, mentre Il Messaggero punta sul rogo a Roma, muoiono 4 bimbi in un campo abusivo rom. Vedremo se c'è tempo, altre aperture. Beh, certo, intanto ieri questi scontri, polizia, manifestanti, 2 arresti ad Arcore in 2000 con il popolo viola, così a pagina 3 di Repubblica. Sandro De Riccardis racconta la giornata un po' convulsa ieri davanti alla residenza del Presidente del Consiglio ad Arcore, con 2 arresti anche di un paio di persone militanti in alcuni centri sociali, che verranno processati oggi per direttissima. È quella che è Libero, che oggi esce tra l'altro in edizione straordinaria, lunedì di solito non è in edicola, oggi Maurizio Belpietro definisce la carnevalata degli anti-Silvio, assedio ad Arcore, efficace anche il titolo molto ironico dell'Unità, pagina 6, tentano di entrare ad Arcore ma senza l'elemora, caricati. È solo una di quelle manifestazioni, certo, che fanno un po' alzare la tensione in questi giorni. Per esempio c'è stata anche la manifestazione sabato al Palasharp della società civile, nella quale è spiccato sicuramente l'intervento anche di Roberto Saviano. Per molti torna in auge l'idea di un Roberto Saviano leader dell'opposizione. Su tutto questo Giuliano Ferrara, nel suo abituale commento del Foglio del lunedì, è molto critico. Lettera alle belle anime azioniste sulla loro miseria. È sceso in campo Libertà e Giustizia, con lui il moralismo dei ricchi veri, cioè l'azionismo, ma quello di oggi, quello senza alcuna gloria, solo con molto pennacchio, quello dei finti perseguitati, quello degli scrittori billionaire che dicono di andare a letto tardi, sì, ma solo perché leggo Kant. Così Giuliano Ferrara, che ancora prosegue: non ho parole per descrivere il timore, il tremore che mi hanno provocato le esibizioni del palco del Palasharp, la telefonata mediocre di Ginsburg, le banalità di Saviano. Che delusione la Camusso a rapporto dai suoi nemici di classe. Per un momento ho pensato che vorrei leggere nelle vite di questa brava gente impeccabile, vorrei intercettare questi censori moralmente al di sopra della comune umanità italiana, saggiare le anime, i peccati di questi ottimati che vogliono sradicare Berlusconi fornicatore per andare oltre, come dicono, organizzare il lavacro del paese profano e sporcaccione che siamo. Ma subito mi sono vergognato anche solo di aver pensato di comportarmi come loro. Questo Giuliano Ferrara, il tema di che tipo di opposizione, un po' anche il tema del nostro sondaggio. Noi oggi ci occupiamo della manifestazione del movimento per Legittima Difesa lanciato da Santoro e Travaglio e anche da Barbara Spinelli. Una idea che vi piace, questo vi chiediamo nel nostro sondaggio. Vi state votando in tantissimi, tra l'altro siete spaccati decisamente al 50%, continuate a votare su radio24.it, ne parleremo poi alle 8:30. certo, sullo sfondo c'è sempre il caso Ruby, che racconta oggi Donatella Stasio sul Sole 24 Ore a pagina 11. È a una svolta, perché questa settimana è la settimana in cui la Procura di Milano formalizzerà le sue richieste. Due diverse sono le richieste di processo per Silvio Berlusconi, questa è l'orientamento della procura: una per il reato di concussione con il giudizio immediato, l'altra per prostituzione minorile con citazione diretta a dibattimento. Questo è l'orientamento della procura di Milano, che in settimana formalizzerà le sue richieste nei confronti del premier. E poi, insomma, su questa vicenda, Rubi, ci si è interrogati ancora ieri. Insomma, un paese un po' appeso alle dichiarazioni di Fabrizio Corona. Questo un po' siamo, no, in questo momento. Il giallo delle foto di Arcore. Corona, al quale hanno rubato delle foto, un archivio. Corona che prima ha detto ci sono le foto di Berlusconi nudo. Poi, ora, ieri a Canale 5 ha detto io queste foto non le ho. Ora dice anche le vuole la camorra. C'è in effetti un giallo, perché c'è, e lo racconta il Corriere della Sera, pagina 5, tutta una pista napoletana con indagini, un'indagine su una persona che avrebbe piazzato alcune banconote false. Da lì sono iniziate una serie di intercettazioni che avrebbero coinvolto anche Sara Tommasi, una showgirl, la quale sarebbe stata pizzicata a mandare qualche SMS, per la verità, dice il Corriere della Sera, senza risposta a Silvio Berlusconi. E poi c'è tutta questa vicenda della malavita a Napoli, che starebbe cercando di gestire queste immagini, se esistono, non esistono, se usciranno, non usciranno, se mai ci sono state oppure no, in cui sarebbe ritratto Berlusconi in atteggiamenti sconvenienti, quelle immagini per le quali Ghedini, l'avvocato di Berlusconi, ha già detto se escono sono dei falsi. Insomma, non si capisce più granché attorno a queste foto. Quello che invece rilancia il Corriere, con Luigi Ferrarella e Giuseppe Guastella, che stanno seguendo la vicenda Rubi dall'inizio, a pagina 5, è che Iris Berardi, una delle ragazze che sono state presenti alle feste di Berlusconi, era ad Arcore con il cavaliere il giorno prima dell'aggressione di Tartaglia, e la giovane, dice il Corriere, che era ad Arcore e nello stesso giorno in cui, da letture delle agenzie e dei giornali, anche Berlusconi era ad Arcore, la ragazza aveva 17 anni. Quindi c'è un'altra minorenne che viene tirata in ballo e associata a Silvio Berlusconi, questo dal Corriere della Sera. Il giorno dopo Berlusconi fu ferito da Tartaglia. Un Berlusconi che ieri è tornato ad attaccare i giudici, i PM, in un messaggio ai promotori della libertà che è stato diffuso, e la politica, per la verità, si interroga anche su quello che è il rimpasto, non il rimpasto. Ieri Berlusconi pare abbia un po' negato la volontà che ci possa essere un rimpasto di governo. Una persona che certamente sta tornando in auge dai giornali, nella politica, è Pannella. Marco Pannella, oggi sia La Stampa sia il quotidiano Libero vi dedicano due pagine. Jacopo Iacoboni lo ha anche intercettato su un tassì a Roma, ha fatto un colloquio con Pannella che trovate a pagina 4. Noi dialoghiamo, certo, è il comandamento lasciato da Pasolini quando ci spedì il suo testamento. Abbiamo dialogato anche con le meretrici, figurarsi. Insomma, è il solito Pannella che dice dialoghiamo con Berlusconi. Sì, possiamo trovare un'intesa, trattiamo, vediamo cosa ci offre. Almeno Berlusconi, quando ti dice di volerti vedere, ti fissa un appuntamento. Rosi Bindi e Bersani mi hanno sempre detto ci incontriamo, e chi li ha mai visti? E poi sentite Pannella: tra il puttaniere Berlusconi e il casto Formigoni non c'è nemmeno da discutere dove stia io. E poi quello che è successo a Milano, la bigotta opposizione di regime diretta dall'ingegner De Benedetti. Io stimo Saviano, è una faccia pulita, ma quali sono le proposte di questa opposizione supplente? Nessuna. E poi ancora, non esiste alternativa, o pensiamo che lo sia il governo Tremonti con più Formigoni? Io dico col cavolo, al peggio non c'è mai fine. E insomma, contro i falsi moralisti Pannella dice dobbiamo trattare. Certo, il popolo radicale è in rivolta, ho letto 600 mail, mi danno del traditore, molti mi ricoprono con una marea di insulti, rispondo così, stiamo contrattando? E vabbè, vedremo cosa avremo ottenuto. Noi siamo convinti che deve durare la legislatura. E su Libero si riparla anche di una possibilità con Alfano, in questo rimpasto di governo, che venga messo a gestire unico coordinatore del Popolo della Libertà, e quindi si libererebbe la poltrona di ministro della giustizia. Viene anche citato già Mario Patrono, consigliere del CSM di area socialista vicino ai radicali, potrebbe essere la persona in questo fantapolitica, chi lo sa, che potrebbe prendere il posto al Ministero della Giustizia. Siccome il lunedì, sapete, non ci sono grandi notizie sulla politica, ci sono varie interviste eccetera, oggi non posso non risparmiarvi una bella paginata di Adriano Celentano, no? Che per la seconda volta nel giro di qualche mese compare un'intera paginata sul Corriere della Sera, pagina 13, con questa premessa: anche l'altra volta c'era del direttore Ferruccio De Bortoli. Adriano Celentano ogni tanto manda un suo scritto al Corriere. Non sempre siamo d'accordo con lui, ma la libertà dell'artista, specie di questi tempi, è sacra ed è sempre una ventata d'aria fresca, per fortuna. Ecco qui un colloquio di Adriano Celentano con Beppe Grillo sui temi d'attualità. Grillo non è mai stato tenero con noi, ma anche la sua libertà qui è rispettata. E fatta questa premessa, dalla quale un po' De Bortoli si dissocia anche da quello che c'è scritto, ma come dire, però la libertà è sacra e dunque vi offriamo quello che è la paginata di Adriano Celentano. Chi non ruba è un cretino, questo è il titolo. È una conversazione che Adriano Celentano ha fatto con Beppe Grillo. Tra l'altro, singolarmente, Adriano, quando parla lui, c'è Adrian e Grillo è Grillo. Cosa dice Adrian alias Adriano Celentano? Vabbè, le due o tre perle che ho raccolto è: i comuni sono i maggiori responsabili dello sfacelo, i grandi devastatori di ciò che era la nostra bella Italia. Questo è Adriano Celentano. Basta dare un'occhiata alle orripilanti ferite mortali che i genitori di Frankenstein, cioè il sindaco Moratti e Formigoni, hanno inferto alla città di Milano. I genitori di Frankenstein li definisce. La stanno dissanguando con la scusa di fare più case per la gente, ma in verità sono eleganti loculi tombali dove i milanesi, ormai indifferenti a tutti, moriranno di cancro. Qua Filippo Aureggi è milanese come me, insomma, sta toccando il microfono, diciamo. È di poche ore, infatti, l'approvazione dei nuovi campi di sterminio da parte del comune di Milano. Più di 7 milioni di metri quadrati apriranno le porte al cemento. E poi Grillo che dice: il potere potrà schiacciarmi, ma noi, la macchina delle 5 stelle, il movimento di Grillo, no? È ormai un virus innescato in questa società sfaldata. E poi Adriano Celentano dice: il rischio è questo, francamente penso che questa brutta malattia, cioè l'Italia ridotta a un vero e proprio groviglio di conflitti di interesse, abbia seriamente intaccato la natura degli italiani. Credo che oltre al curatore fallimentare, noi italiani avremmo bisogno di un curatore animale, nel senso dell'anima. Come diceva Gesù, se già nel piccolo si è onesti, a maggior ragione lo si è nel grande. E conclude Adriano Celentano: Gesù ci sta dicendo che per praticare l'arte dell'onesto cittadino, come anche quella del ladro, è necessario un certo allenamento. Per cui se fin da piccoli ci alleniamo a rubare, non dobbiamo meravigliarci se poi da grandi si forma in noi la malsana idea che chi non ruba è un cretino. Questo infatti è il titolo della paginata sul Corriere della Sera di Adriano Celentano: chi non ruba è un cretino. In primo piano. Libertà d'impresa, incentivi su De Casa, così il piano per rilanciare l'economia. Questo è a pagina 8 del Corriere della Sera, perché mercoledì c'è un Consiglio dei Ministri straordinario e questi sono i punti che vuole rilanciare il governo. Tra l'altro segnalo sulla stampa con Renato Brunetta, il ministro della Pubblica Amministrazione, perché si è detto si vuole cambiare l'articolo 41 sulla libertà d'impresa. Ma Brunetta rilancia in un articolo che ha solo una notizia che viene lanciata solo dalla stampa, cioè se praticamente Tremonti o comunque il governo vuole puntare sull'articolo 41, secondo la stampa Brunetta vorrebbe rilanciare anche per quel che riguarda un altro articolo della Costituzione, vale a dire l'articolo 97. Ora anche Brunetta si prende un pizzico di Costituzione, è un articolo che riguarda, che recita così l'articolo 97 della Costituzione: i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni, le responsabilità. Agli impieghi si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Sarà migliorato e rafforzato questo articolo. Non ha detto come alla stampa. Comunque cambiamo l'articolo sulla amministrazione. Questo ha annunciato Brunetta. Riguardo tra l'altro alla svolta del governo, alla voglia di rilanciare l'economia, beh, oggi registro una lettera che il giornale pubblica in prima pagina di Emma Marcegaglia, il presidente di Confindustria, la quale risponde a un editoriale molto duro, sferzante, che ieri Giuliano Ferrara, che da qualche giorno, da qualche tempo è anche editorialista del giornale, ha scritto proprio in prima pagina, un editoriale che era duro. Caro Giuliano, la frustata di Berlusconi va bene, ma... Questo è il titolo della lettera di Emma Marcegaglia, che risponde alle critiche di Giuliano Ferrara. Beh, intanto dice la Marcegaglia, se anche gli imprenditori sono in balia di una donna, questo era il titolo, che esprime meglio di tante altre parole quanto scivoloso ed equivoco resti per tanti maschi considerare le donne. Voglio lodarvi, scrive Emma Marcegaglia al giornale. Il vostro titolo parla chiaro, non gira intorno al pregiudizio, ma lo dichiara. È la cosa migliore se vogliamo che anche in Italia un giorno appaia quel che è, un'anticaglia. E poi alle critiche di Giuliano Ferrara, intanto dice la crescita, Berlusconi l'avrebbe messa al centro della sua agenda e la Marcegaglia no, scrive Ferrara. Per la crescita fa benissimo Ferrara tenere premier e governo solidamente incardinati sulla sua nuova agenda governativa, che è nata solo da una settimana, con un annuncio al Corriere, un'offerta di cooperazione all'opposizione che Confindustria ha salutato come positiva. C'è solo un piccolo ma innegabile particolare da ricordare. Confindustria è da fine 2009 che chiede instancabilmente che questo e solo questo sia la priorità politica per governo come opposizione. Anche qui un numero, se digitate su Google Marcegaglia e crescita, vi usciranno 64.900 rimandi, dichiarazioni, relazioni, proposte. Quindi scrive ancora Emma Marcegaglia, Ferrara sa bene che la nostra insistenza è stata tanto forte che spesso è finita per spiacere al governo. Dunque il presidente di Confindustria Marcegaglia interviene dopo l'editoriale di Ferrara, questo in prima pagina del Corriere. Certo, sul tema dell'economia e del rilancio c'è anche tutta la questione Fiat, con il rischio che Fiat vada via. Segnalo su questo un'intervista al ministro Sacconi, intervistato dal quotidiano nazionale, che dice Fiat resta e Marchionne si fidi. Questo per quel che riguarda il piatto dell'economia. Oh, c'è tantissima ancora di segnalazioni, oggi mi sentite un po' correre, ma d'altronde se uno parte molto tardi, poi deve cercare di recuperare, e mi scuserò già, non leggerò tantissimo di quello che si poteva leggere sui giornali. Allora, andando a un estremo sunto, c'è molto di cronaca, certamente la pagina più inquietante, la pagina principale è quella del rogo avvenuto a Roma. Il Messaggero lo mette in prima pagina come titolo: rogo a Roma, muoiono 4 bimbi, fratellini colti nel sonno in un campo abusivo a Roma, avevano 4, 5, 8 e 11 anni. Fiamme nella baracca Rom, 4 fratellini bruciati vivi. E tra l'altro c'è Mauro Evangelisti che segue il sindaco Alemanno: ho appena visto i corpicini dei bambini carbonizzati, quella maledetta baracca di plastica che a causa di una fiamma si è trasformata in un forno crematorio. Ho appena visto le scarpine di quei 4 bambini morti appese fuori, non lo posso più accettare, una città come Roma non può accettare una tragedia come questa. Urlerò al governo, chiederò poteri speciali da assegnare al prefetto per l'emergenza Rom. È un sindaco di Roma, Alemanno, definito infuriato, affranto, scosso, quello che ieri è andato a visitare il campo Rom abusivo dopo questa vicenda. Strage di bimbi Rom è anche il titolo di apertura del quotidiano nazionale. C'è anche una polemica, Alemanno quando è arrivato è stato anche verbalmente aggredito dal presidente del nono municipio Susi Fantino di Sinistra e Libertà, la donna che lo incalzava alla fine Alemanno ha replicato non si specula sui morti, e ora la volontà di dire urlerò al governo di fare qualcosa, di darci poteri straordinari per gestire l'emergenza Rom. Chiudiamo con un'altra cosa, io l'avevo citata nei giorni scorsi, questa tassa, tra le varie tasse assurde, questa in Svizzera, nella quale nel canton Giura c'è una tassa per cui se non paghi la tassa sul cane ti viene soppresso il cane, sembrava una barzelletta perché è una tassa del 1904, guardate qua, sembra fatta apposta, non paga la tassa comunale, le uccidono il cane. Sul Giornale a pagina 15, ma anche su Libero a pagina 19, l'ho letta anche sulla Stampa, non paga una tassa da 38 euro, la Svizzera le uccide il cane. È successo appunto nel comune di Recomvillier, dove c'è questa tassa, bisogna pagare la tassa annuale sui quadrupedi, altrimenti ti vengono lì, ed è successo a una signora italiana di origine, Marilena Iannotta, gli hanno preso il barboncino di 3 anni, perché non aveva pagato la tassa, forse se l'era dimenticata, forse voleva fare un po' l'italiana furbetta, e gliel'hanno soppresso. C'è il sindaco che dice, non capisco tutte queste proteste, abbiamo applicato solo la legge, le stanno arrivando a questo sindaco minacce di morte da tutto il mondo, dal web, per questa applicazione di questa tassa, non ha versato il tributo sugli animali, una legge del 1904 ha detto, quel cane va soppresso, e così è successo. Votate il sondaggio, io chiudo puntualissimo per dare la linea al GR 24 mattino. L'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan, eccoci qua alle 8:20 minuti. Voglio salutare per la nostra intervista di oggi Giovanna Maggiani-Chelli, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei. È la presidente dell'Associazione Familiari delle Vittime di Via dei Giorgofili a Firenze, forse. È bene ricordare questa drammatica pagina della storia, era la notte tra il 26 e il 27 maggio del 93 a Firenze, l'esplosione di una bomba, la mafia fu a colpire, 5 vittime, 5 morti ma anche molte ferite, tra cui anche sua figlia, e così, signora Chelli. Senta, è tornata alla ribalta questa vicenda perché il pentito di mafia, ex killer di mafia, Spatuzza, ha chiesto scusa alla città di Firenze. Non è la prima volta, ha chiesto anche perdono a voi in passato. La vostra reazione qual è di fronte a queste richieste? Sì, lui a giugno ci ha fatto avere attraverso il suo avvocato questa lettera nella quale, che noi conservavamo da allora e che abbiamo in questi giorni reso pubblico proprio perché stava per venire in dibattimento Gaspare Spatuzza, e noi oggi rispondiamo quello che avevamo già risposto allora attraverso una nota d'agenzia. Noi supportiamo moltissimo Gaspare Spatuzza per la sua collaborazione, il nostro malgrado siamo stati costretti a credere nei collaboratori di giustizia quale arma insostituibile per avere la verità per ciò che riguarda le cose di Cosa Nostra. Però il perdono è una cosa che non ce la facciamo, non ce la fanno i parenti dei morti, prima di tutto non ce la facciamo noi che siamo i parenti più stretti dei feriti che hanno la vita rovinata, insomma. E tra l'altro di mafia in questi giorni si è tornato a parlare, un'altra vicenda che è apparsa sui giornali un po' in sordina, ma secondo me colpevolmente, è questa, Bernardo Provenzano, che per tutti è l'icona della mafia, no? Non so quanti decenni è stato latitante, che ha chiesto, in quanto malato, di uscire dal carcere, cosa che non succederà, però ha chiesto in qualche modo che gli venga tolto il 41 bis per essere curato. Anche su questo le chiedo un commento, signora. Sì, è passata molto in sordina, è vero, e invece è stato abbastanza singolare che la richiesta di Bernardo Provenzano attraverso il suo legale e la sua famiglia sia arrivata in questo momento in cui Gaspare Spatuzza era in aula a testimoniare su quelle stragi. Bernardo Provenzano, non credo che in questo paese ci siano dubbi, è un mafioso e come tale ha dato il suo messaggio in un momento particolare perché forse fosse capito da a chi in particolare era rivolto. Sì, come ha detto lei, noi ci auguriamo che Bernardo Provenzano non esca da carcere, però siamo in Italia, la mafia è una realtà forte del nostro paese e tutto può succedere. La richiesta di abolizione del 41 bis stava in quel papello che Bernardo Provenzano conosce bene, quindi ci sta di tutto. Una cosa che io ci tenevo a dire stamattina in questa occasione è quella che abbiamo letto le esternazioni di Rosalba di Gregorio, l'avvocato di Provenzano. Di Bernardo Provenzano, esatto. La quale dice la richiesta di vendetta, invece no, e lei personalmente è convinta che la nostra grande civiltà giuridica ci insegni a rispettare il diritto alla vita e alla salute. È vero tutto questo, ne siamo convinti anche noi, però siamo altrettanto convinti che non sia negato il diritto alla salute a Bernardo Provenzano in carcere. Certo, gli è garantito in carcere, dove lui deve stare. In quanto a vendetta, la nostra non è una richiesta di vendetta, la nostra è una richiesta di giustizia, se lo imprima bene in mente l'avvocato di Provenzano, su questo non c'era dubbio. Tra l'altro, esatto, lei signora in passato ha varie volte scritto, non so quante volte, 2 o 3 volte, a Totorina, una volta nell'occasione in cui sua figlia si laureò, credo con 110 e lode. Sì. Perché ha scritto a Rina e ha mai ottenuto una qualche tipo di risposta? Rina a modo suo in qualche modo risponde, dà dei comunicati, noi ne avevamo ascoltato uno drammatico durante il processo all'Olimpico, per la strage dell'Olimpico, quindi non è vero che Rina non dà messaggi. Certo, anche lui è un mafioso e li dà in un modo mafioso, però in qualche modo ogni tanto qualcosa dice, e la nostra speranza è che, essendo molto anziano e volendo andare a casa, la possibilità che si penta ci possa essere, ed è quello che chiediamo a Provenzano: vuoi andare a casa? Pentiti, collabora. C'è una soluzione per farsi curare in casa e non in carcere, perché voglio dire, noi solo questo gli possiamo concedere ai capi di Cosa Nostra, la collaborazione. Non smetteremo mai di chiederla, anche attraverso nostri scritti se è necessario. Non è facile scrivere ai capi mafia, però se non troviamo la verità da nessun'altra parte, proviamo a chiederla a loro, che la sanno per davvero. L'Italia è un paese che dimentica anche in fretta. Sua figlia come sta da quel giorno, nel quale tra l'altro ricordiamo perse il fidanzato di allora, rimase vittima, sua figlia invece è rimasta ferita. Lei ha raccontato, da quel giorno non è mai stata più la stessa persona. No, Francesca non è mai stata più la stessa persona. Io però approfitto anche di questo momento così pubblico, così forte, che voi mi avete dato. Io non vorrei parlare di mia figlia, perché mia figlia non vuole parlare che io parli di lei per questa cosa. Non lo vuole perché preferisce il silenzio, preferisce cancellarlo quel momento. Chi veramente dal terrorismo viene colpito molto in profondità non ce la fa. A volte ci sono persone trasversali come me, che mi attiro anche le ire della figlia stessa, e ci provo, voglio dire, convinta di farlo per lei, ma non sono sempre capita in questa cosa. Io mia figlia la comprendo, perché veramente quello che gli hanno fatto è una cosa drammatica per gli esseri umani, quello che subiscono da atti di terrorismo da parte di chi invece dovrebbe difenderli. Io su questo la ringrazio e la saluto, signora. Buona giornata, ovviamente. Grazie per essere stata grazie a voi, con noi. Moltissimo. Giovanna Maggianichelli, voglio ricordare, la presidente dell'associazione dei familiari delle vittime di via dei Giorgofili a Firenze, quella Firenze alla quale il pentito di mafia Gaspare Spatuzza ancora 2 giorni fa ha detto: chiedo perdono per avere eseguito, per essere stato all'interno di quella strage. Ci fermiamo noi sondaggio, veniva la parola, non sapevo di che dovevamo parlare, il sondaggio bianco o nero. Tra poco parliamo di questa opposizione un po' così, che si sta, non opposizione politica, ma queste manifestazioni. L'ultima è quella di cui noi parliamo nel sondaggio, è quella di Santoro, Travaglio e Barbara Spinelli, che ha lanciato questo movimento civile, Legittima Difesa. Cerchiamo di capire legittima difesa da che cosa. E vi chiediamo: vi piace, vi interessa questa idea, vi piace questa iniziativa? Poi sappiamo, c'è stata anche sabato la manifestazione che ha visto protagonista Saviano e non solo a Milano. Ieri il Popolo Viola ha manifestato ad Arcole, c'è stata anche qualche tensione, insomma un'opposizione anche di piazza che si sta facendo a quello che è il governo, la situazione legata alle vicende e alle note inchieste. Vi piace l'iniziativa di Santoro e Travaglio? Votate su radio24.it, oppure siamo anche su Facebook con 24 Mattino. E infine 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta. Tra pochissimo. 24 Mattino. Si chiama Legittima Difesa, è il movimento, non è un partito, dicono loro, non svelano per ora molto, ma è il movimento che Michele Santoro, Marco Travaglio, Barbara Spinelli hanno lanciato come forza civica di opposizione a questo governo, ed è il tema del nostro sondaggio. Vi piace questa iniziativa? Io sono o blanco o negro, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Leggo dal manifesto pubblicato sul sito di Anno Zero: noi non chiediamo altro se non che tutti, dai magistrati ai giornalisti, possano svolgere il proprio lavoro senza subire ingerenze da parte del governo. Vogliamo vivere in un paese civile dove sia bandita qualunque impunità per i potenti e la giustizia sia uguale per tutti. Vogliamo debellare il conflitto di interessi perché è un'epidemia che paralizza l'Italia. Vogliamo una classe dirigente rinnovata. È ora che in Italia sorga e si organizzi un movimento di legittima difesa dei principi che sono alla base della nostra Costituzione. Sintetizzo. Quanto a noi, a fine febbraio, inizio marzo, daremo vita a un evento della società civile in vista delle elezioni più drammatiche dell'ultimo quindicennio. Questa è in estrema sintesi il movimento Legittima Difesa. Ma poi c'è stato il movimento al Palasciarpa sabato, c'è stata anche una manifestazione del Popolo Viola ieri davanti alla residenza del Presidente del Consiglio ad Arcore, finita con tafferugli. Insomma, una opposizione, movimenti di piazza che segnano un periodo politico sicuramente di tensione. Vi piace questo movimento? Per ora vi state dividendo esattamente a metà, prevalgono i no col 51%, di pochissimo, su radio24.it. Ne vogliamo parlare con il sottosegretario all'attuazione del programma, Daniela Santanchè. Buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno a lei e a tutti. Così come saluto e ben ritrovato anche lui il senatore Pancio Pardi dell'Italia dei Valori. Buongiorno senatore. Buongiorno. Tra l'altro la sua storia politica nasce con i movimenti dei girotondini, no, del 2002. Quindi le chiedo subito che effetto le fa questa società civile che si mobilita in varie modalità. Ottimo. Ottimo. E dica qualcosa in più, insomma. No, pensavo che no, lei volesse la sintetico, no? Lei è radiofonico, sì, straordinariamente. Mi sembra ottimo perché è un'iniziativa che non ha aspettato l'imbeccata dei partiti. Rappresenta un impulso proprio e anche molto pluralistico, perché come lei ha detto, Santoro, però c'è Libertà e Giustizia, c'è il Popolo Viola e poi ci sono tutti gli altri che non hanno titolo, che non hanno nome e che partecipano, promuovono, eccetera. La cosa fondamentale è il fatto che non possiamo avere un Presidente del Consiglio che sputtana l'Italia. Avere un tipo come quello alla Presidenza del Consiglio è puro fango per l'idea dell'Italia nel mondo e per le istituzioni italiane. Ci si è cacciato da solo, perché se lui non faceva quella telefonata per tirar fuori la giovane minorenne prostituta dalla questura di Milano, probabilmente questo grosso ultimo ambaradan non sarebbe accaduto. Allora, l'ambaradan, però voglio chiedere subito al sottosegretario Santanchè se in qualche modo non ci sia, come titolavano per esempio il giornale Libero, anche un motivo per gongolare da parte del governo. Mi spiego. Saviano, qualcuno dice, può diventare il nuovo leader dell'opposizione. Le donne in piazza, il Popolo Viola, Legittima Difesa, sono sintomi, chiedo, del fatto che non c'è un'opposizione politica forte al governo Berlusconi? Ma questo lo fa vincere ed emergere con tutta la sua forza, perché manca proprio il partito principe che dovrebbe essere dell'opposizione, il Partito Democratico. Tutti questi surrogati, tutte queste iniziative volte a cercare di fare qualcosa, di battere un colpo, voglio dire, la dicono lunga sullo stato di salute del Partito Democratico e dei suoi alleati. Vede, lei ha letto il manifesto dell'Ultima Difesa, di questo nuovo movimento, però mi sembra che manca dei punti fondamentali. Io vorrei vivere in un paese civile dove non si calpestano le libertà individuali, dove la segretezza della corrispondenza, delle comunicazioni, la libertà di movimento fossero sancite, perché non vorrei consegnare a mio figlio o ai figli di tutti un'Italia come quel film La vita degli altri, spiati, seguiti, guardati dal buco della serratura. Io credo che queste siano libertà ci dovrebbero vedere tutti insieme per poterle difendere. Queste sono le intercettazioni, però non dovevamo sapere che il Presidente del Consiglio ha telefonato in questura, questo sì, immagino. Ma guardi, non servivano le intercettazioni per sapere che il Presidente del Consiglio aveva telefonato in questura. Il Presidente del Consiglio ha sempre detto, è vero, ho chiamato. Quindi voglio dire, non bisognava che fosse intercettato per saperlo, perché mai si è sottratto nell'ammetterlo e nel dirlo. Ma la cosa che le dico, non riesco assolutamente a capire, è vedere queste donne che scendono in piazza, mi risulta, se così sarà domenica. Sì, sabato prossimo, il 13, non so sì, se sia sabato, domenica prossima, quelle donne che, voglio dire, scendevano in piazza per le rivendicazioni sessuali, quelle donne che scendevano in piazza per dire l'utero è mio, me lo gestisco io, invece adesso rinnegano la loro storia perché si sono alzate improvvisamente una mattina e non per credo, ma per l'odio nei confronti di Berlusconi, adesso vogliono gestire l'utero di tutti e sono diventate bigotte più delle bigotte, perché adesso non gli va più bene le libertà sessuali, non gli va più bene che ogni donna utilizzi il proprio corpo come meglio crede, che ogni donna faccia delle scelte come voglio dire sente nel proprio vivere. Ma parla come Ostellino lei, sentite, cioè parla come Ostellino, cioè la donna è libera di poter usare il proprio corpo anche se questo serve. Lo dico da sempre che una donna deve essere libera. Ci sono comportamenti che io non approvo e che non farei mai, ma certo con questo non mi ergo a censore o a giudice. E invece vedere queste donne che adesso sputtano la propria storia come un ossicino di pollo, perché la cosa più importante per loro è l'odio nei confronti di Berlusconi, e si dimenticano di tutte quelle libertà sessuali che hanno assolutamente combattuto. Ma questo non le piace. Sentiamo, senatore Pardi, lei non vede un po' di immoralismo al chilo? Il signor Santanchè sta facendo una confusione infernale. Una cosa è la libertà di gestirsi il proprio corpo, altra cosa è quella di organizzare un giro di donne a pagamento nelle residenze del Presidente del Consiglio, con bonifici di 10.000 euro a botta, con ragazze che sono state pagate fino a 115.000 euro l'anno, che vengono tenute in batteria dentro uno squallido condominio di Milano 2 e chiamate col telefono, scelte di volta in volta come delle figuranti, questa sera quelle e quest'altra sera quest'altre. Questa è una maniera ben curiosa di considerare la libertà di usare il proprio corpo. Certo, quelle ragazze hanno il diritto di usare il proprio corpo, e chi glielo nega? Facciano quello che vogliono. Il problema è che abbiamo un Presidente del Consiglio che sputtana l'Italia nella maniera più volgare, più rozza, più insostenibile. Cioè, un personaggio come quello, in qualsiasi altro paese del mondo democratico, sarebbe inconcepibile. In Inghilterra i ministri vengono mandati via perché non pagano le collaboratrici domestiche. Noi abbiamo un individuo che non si sa come ha fatto a diventare ricco, con i soldi di chi, è diventato un monopolista televisivo aiutato da Craxi, perché senza Craxi non sarebbe diventato monopolista televisivo. Si è impadronito del potere politico dopo aver lavorato per 20 anni a costruire la pancia degli italiani con le sue televisioni private. In nessun paese del mondo un monopolista televisivo sarebbe alla Presidenza del Consiglio, e ci tocca pure sentire le prediche delle sue sostenitrici che però, parlano, senatore, in nome. Questi... A cosa c'entra l'utero, signora Santanchè? Vabbè, no, questa adesso su questa adesso le replicherà. Però, senatore, questi sono argomenti, io l'ho lasciato argomentare, che da 20 anni si sentono dire contro Berlusconi, no? Quelli che lei dice, i soldi, come ha fatto i soldi, il monopolio televisivo, il conflitto di interesse. Poi Berlusconi, e questo è un problema non secondario per lei, quando va di fronte agli elettori viene votato dagli italiani. E allora, senatore Pardi, come la mettiamo? Cioè, è giusto tentare di abbatterlo con queste manifestazioni? Ma è giustissimo, loro abbatterlo, è giustissimo abbatterlo politicamente. È giustissimo esprimere l'intollerabilità di questa situazione. Tenga conto che nessun paese al mondo un equivalente suo avrebbe potuto presentarsi alle elezioni. È bello dire, ah, ma è stato votato, ma lui non aveva il diritto di presentarsi alle elezioni, perché in nessun paese democratico il proprietario dei mezzi di comunicazione può entrare nella scena politica. Ma si rende conto che lui ha dei giornali che martellano i suoi oppositori e i giornalisti avversi tutte le mattine? Ma dove esiste una cosa di questo tipo? In qualsiasi neanche, altro paese neanche, del di mondo? Neanche di contrari che lo martellano tutte le mattine. Come? Sì, neanche certo, di meno, per fortuna, ma negli altri paesi del mondo i leader democratici per martellare l'opposizione hanno bisogno di avere dei giornali amici, non dei giornali propri. Questa è la differenza fondamentale che chi sostiene Berlusconi non vuol capire. Lui non è normale, non esiste, è l'anomalo per definizione. La posizione di Berlusconi al potere è l'anomalia italiana, diciamo così, ontologica, al massimo grado della sua potenza. Allora, ci fermiamo per le informazioni sul traffico, poi risponderà l'onorevole Santanchè su che c'entra l'utero in questo discorso tra un attimo. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, detto che siete sempre 50%, ho recuperato un attimo, 50 e 50, che vi piace questo movimento, Legittima Difesa, di Santoro, Travaglio e Barbara Spinelli. Sottosegretario Santanchè, qui la posizione di Pancio Pardi è molto chiara, no? Cioè c'è un'anomalia, Berlusconi all'ennesima potenza, colui che ha tutti i giornali. Colui che sputtana l'Italia nel mondo. Ma le chiedo del comportamento privato del Presidente del Consiglio. Lei non ha nulla da rimproverare da donna? Guarda, io dico una cosa, sentendo Pardo, che mi sembra veramente un disco rotto, perché argomenti che sentiamo da 16 anni, 17 anni in questo paese, e dove hanno portato sempre a rafforzarsi, cioè si è sempre rafforzato Silvio Berlusconi con il consenso, con milioni e milioni. Ma Pardi dice perché ha i giornali, perché ha le TV, perché è un'anomalia, insomma. A me invece piacerebbe parlare con un'opposizione che dovrebbe avere e studiare un progetto paese alternativo a quello che proponiamo noi. Invece un'opposizione che non trova più la politica, che non trova più l'iniziativa politica, ma cerca soltanto in quell'odio che custodisce nei confronti di Silvio Berlusconi di farne un manifesto politico. Ogni volta non ci riesce, ogni volta viene smentito dagli elettori, e ricordo che non tanti mesi fa abbiamo avuto le elezioni di medio termine, dove c'erano già stati degli scandali di questo genere, Noemi e la D'Addario, dove gli italiani hanno premiato ancora di più Silvio Berlusconi, che hanno fatto vincere al Popolo della Libertà alcune regioni importanti come il Piemonte, come il Lazio, addirittura senza lista del PDL, che erano governate dal centro-sinistra. Quindi dice queste cose non servono, sono attacchi. Io voglio dire, queste cose qua non servono, parlate di politica, non trovate, voi accusate le donne di trovare scorciatoie, di offrirsi al drago, di, come ha detto prima Pardo, venire scelte dal presidente Berlusconi come se si trattasse di un harem. Ma quello che voi state scegliendo è proprio questo, state scegliendo ciò che non vi premierà mai, perché gli italiani da questo punto di vista hanno le idee assolutamente chiare, più insistite più lo rafforzate. Su questo devo dire, senatore Pardi, effettivamente questo non è, almeno in questi anni, la vicenda Noemi, la vicenda D'Addario, le escort, per ora non è che hanno portato a un indebolimento politico, almeno numerico, dal punto di vista numerico, del Presidente del Consiglio, no, senatore Pardi? Però è giusto continuare su questa linea. Mi permette di osservare che la signora Santanchè ha elegantemente sviato la domanda. Sì, gliela rifaccio. Lei è talmente imbarazzata che non ha risposto. No, non è vero, ma effettivamente, Santanchè, un po' da donna lei, cioè quello che fa il Presidente del Consiglio non le interessa proprio niente, oppure dice... Allora. A me interessa moltissimo quello che fanno i politici nei loro comportamenti politici e pubblici. Quindi delle feste non le frega niente. No, le mi interessa moltissimo Marazzo, che andava transessuale pagando con i soldi degli italiani, andava con l'auto blu. Qua paghiamo parliamo del 77esimo uomo più ricco del mondo. che sei nei suoi divertisman, può essere una persona che ama fare regali, che può essere un uomo molto generoso, non con belle. I soldi nostri, con i soldi suoi, ma io voglio dire, ma a me che cosa mi importa? Vabbè, che cosa fa il presidente? Ha risposto, senatore Pan, non le importa niente, al limite fa dei regali e sono soldi suoi e quindi li può usare come vuole. Però senatore, anche sul fatto che insistere su questo punto non ha portato molto fino a questo è una cosa, insistere su questo punto cioè la vicenda Noemi, la vicenda D'Addario hanno effettivamente fortificato un momento, noi precisiamo, noi non insistiamo affatto sugli aspetti pruriginosi e libertini, anzi le posso dire che io in teoria sarei pure favorevole al libertinismo. Il libertinismo è un'antica categoria settecentesca, quindi non stiamo su questo piano e non siamo nemmeno sul piano moralistico. Noi insistiamo sul carattere dell'anomalia istituzionale, che poi questa anomalia istituzionale abbia anche i caratteri di uno stile di vita miserabile, diciamo, quello sono fatti. Ma guardi, che però il leader del suo partito ieri, Di Pietro, ha detto prendiamo la Bastiglia, riferito a quella manifestazione davanti ad Arcore, no, dove c'è stato qualche tafferuglio di qualche infiltrato. Non è bella l'immagine, no? Che dobbiamo fare? Assaltare le residenze? No, vabbè, insomma, diciamo le espressioni. L'espressione figurata, sempre così, un tono per l'espressività della comunicazione, mica ci sono le armi qui, tutti solo armi della logica e della dialettica. Ma la questione su cui insistono non solo noi, tutti, cioè la società civile, Spinelli, Libertà e Giustizia, il Popolo Viola, è la questione dell'anomalia istituzionale, che è foderata oramai da una legge elettorale che produce una situazione per cui una minoranza ha la maggioranza, perché uno dei ritornelli che tutti usano, Santanchè compresa, votato dalla grande maggioranza degli italiani, non è mai stato votato dalla grande maggioranza degli italiani. La maggioranza assoluta. Lui è sempre stato votato da una grossa minoranza. Si è costruito, con l'aiuto di Calderoli, una legge elettorale che aumenta enormemente a dismisura questo carattere, perché col 30%, 35% può prendersi il 55% dei seggi. Sì, sì. Quindi qui siamo di fronte a un'anomalia nell'anomalia, cioè l'anomalia italiana ha prodotto un sistema per cui c'è una distorsione originaria della rappresentanza politica. Ha sicuramente preso più voti degli altri, se no il premio di maggioranza andava a chi ne prendeva di più, diciamo. Ma il premio di maggioranza è una stortura in un regime elettorale proporzionale. Se lei riflette, un sistema elettorale proporzionale, se un premio di maggioranza non è più proporzionale. Questo è sul tavolo, insomma, rifatela, mettetemi in Parlamento e rifate questa benedetta porcata, riscrivetela meglio. Fatemi dare due ascoltatori. Roberto dalla provincia di Padova, buongiorno. Buongiorno. Roberto, dica. Un saluto a tutti gli ospiti in trasmissione. Io stavo ascoltando adesso l'intervento del signor Pancio Pardi. Sì. Prima faceva riferimento a Berlusconi, che ha preso con le sue televisioni la pancia degli italiani. Però quello che non accetto, non sopporto come cittadino da questo punto di vista, se Pancio Pardi può pensare di prendere voti dagli italiani rispondendo sempre con la pancia, con questo Berlusconi che è l'anomalia italiana, l'anomalia di qua, l'anomalia d'Italia. Io chiederei al signor Pancio Pardi che mi facesse una proposta per che cosa vuole per l'Italia, per mio figlio e che cosa vuole fare per me, che sono lavoratore dipendente, che si prevede prelevato il 45% dello stipendio. E l'accusa di dire, che dice anche l'onorevole Santanchè, questo anti-berlusconismo da 20 anni che non fa altro che fortificare il berlusconismo. Come ha detto Giuliano Ferrara al Fatto Quotidiano, se non ci fosse da domani Berlusconi, non avrebbero da lavorare moltissime persone, tra cui il Fatto Quotidiano e tra cui, chiedo, il senatore Pardi. Ho da chiudere, senatore, risponde all'ascoltatore che dice basta questa cosa sempre contro Berlusconi. Cosa propone in 10 secondi per il futuro del figlio di Roberto da Padova? Noi proponiamo di occuparsi davvero di economia e di occuparsene in una maniera compatibile col resto del mondo. Non possiamo, per esempio, puntare a una crescita che dissipa le nostre risorse fondamentali, bisogna puntare sulle energie rinnovabili, bisogna puntare su una produzione di altissima qualità e tecnologicamente attrezzata, perché non possiamo davvero fronteggiare le merci a basso costo che vengono dal resto del mondo. Bisogna smettere di avvelenare il nostro paese con le spazzature, i veleni, l'inquinamento di tutti i tipi, perché in questa maniera riusciamo a distruggere la nostra unica vera risorsa, che è un paese unico nel mondo sotto il profilo dell'assetto paesaggistico e dei beni culturali e archeologici. Bisogna inventare un nuovo modo di produrre con un maggior rispetto per l'ambiente, perché se io riesco ma l'ambiente dice. L'ambiente, insomma, nel centro della sua agenda politica. Mi devo fermare qui. Grazie al senatore Pancio Pardi dell'Italia dei Valori, al sottosegretario alla presidenza e all'attuazione del programma Daniela Santanchè, per essere stati con noi. Continuate a votare su Facebook, 24 mattino ci trovate, continuano le discussioni. Per ora siete al 50%. Il movimento Legittima Difesa, quello di Santoro, Travaglio, Barbara Spinelli, vi piace, non vi piace, siete a metà. Devo ringraziare Filippo Reggi oggi in regia. Ringrazio in redazione anche Franco Piantini, che oggi ci ha dato una mano insieme a Elisabetta Fuscone, Antonella Migliaccio e Franco Piantanida, rimane anche con Oscar Giannino, quindi straordinari al massimo. E vabbè, ci fermiamo qui, la linea appunto Oscar Giannino, e noi ci troviamo domattina alle 7:20.